Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, è un piacere parlare con lei. Ho atteso quasi 2 ore adesso qua per scaricare, che sono a Pavia. E il momento in cui devo fare 2 chiacchiere con voi, mi hanno chiamato sotto rampa. Comunque, sto e cosa deve manovra. Fare? Sotto rampa cosa deve fare? E devo scaricare il materiale che ho sopra. Cosa c'ha? Che tipo di merce? C'ho degli elettrodomestici. Vabbè, non deteriorabili, lavatrici. No, sono dei frigoriferi. Frigoriferi, vabbè, siamo. Comunque, niente, io volevo intervenire sui luoghi comuni che ci, positivo e negativo, diciamo così, ci accogliamo addosso da anni. Mi dica quelli che realmente corrispondono alla realtà e quelli che in realtà non esistono più, va? Ma quasi tutti non esistono più, non esistono più quasi tutti, perché radicalmente questa professione qua è proprio cambiata dal giorno alla notte. Cioè non esiste più l'autista di camion come si vedeva anni fa, con gli occhi gonfi e morto di sonno all'autogrill. Siamo ligi a delle regole da rispettare, quindi 9 ore minime o 11 di pausa tutte le sere dobbiamo fare. Quindi dormite molto di più di quanto dorme un qualsiasi essere umano, 11 ore sono tante, figuriamoci. Quindi state tranquilli, a questo punto di vista. Sì, però esiste sempre questa idea di una vita nomade, di essere sempre in movimento. È una professione che in realtà può sembrare forse ripetitiva per voi, ma che la vediamo noi da fuori, cioè sono sempre in un posto diverso. Ma su quello non c'è dubbio, perché comunque io personalmente lavoro, io ho 46 anni, lavoro per una, forse la più grossa ditta di trasporti che c'è qui in Italia. Esco la mattina, il lunedì mattina, e torno il venerdì sera, faccio tutta l'Europa, l'Italia, quello che capita.